Questa notizia conferma tutti i dati raccolti da me nel 2020, sia attraverso la trasmissione 37.2 Radio Popolare, sia poi quelli pubblicati nel libro Senza Respiro, un'inchiesta indipendente sul coronavirus. Conferma che da parte delle istituzioni ci sono state delle non scelte, a cominciare dalla mancata istituzione della zona rossa nel Bergamasco, e delle scelte, tipo la riapertura immediata all'ospedale di Alzano, che hanno contribuito fortemente alla diffusione del virus e che quindi hanno trasformato queste istituzioni, sarebbe più corretto dire i responsabili di queste istituzioni, in sostanzialmente corresponsabili di migliaia di morti insieme al virus del Covid. Ci sono anche altri fatti altrettanto importanti. Le istituzioni non hanno avuto nessuna capacità di utilizzare quello che l'OMS dichiara come finestra di opportunità. Il tempo che trascorreva tra l'individuazione del virus in Cina e l'arrivo del virus in Italia. Sono passate diverse settimane nelle quali sarebbe stato possibile attivare tutti gli interventi necessari di prevenzione, di individuazione precoce del virus, di distribuzione di dispositivi di protezione individuale, soprattutto gli operatori sanitari. Ben poco è stato fatto. Non dimentichiamoci qui in Lombardia tantissimi medici che si sono infettati perché non avevano la mascherina, non avevano tutto il necessario e molti di loro poi sono deceduti. Io credo che la Procura abbia fatto un lavoro molto meticoloso e preciso. E adesso però bisogna evitare che la politica insabbi tutto questo, azzeri tutto questo, perché la politica è coinvolta con diversi gradi di responsabilità, però in tutto l'arco della rappresentanza parlamentare, e quindi io penso che ci sia da aspettarsi un tentativo di mettere tutto a tacere. E allora qui diventa ancora fondamentale il ruolo dei comitati, delle associazioni e della società civile. Io credo che le bare di Bergamo debbano trovare giustizia. C'era stata anche un'altra vicenda, sempre in Lombardia, che aveva fatto discutere, quella di mandare malati di Covid nelle RSA. Anche questa rientra nell'inchiesta oppure no? Ma questo dovremmo leggere poi gli atti dell'inchiesta. Io mi auguro che rientri, e cioè che rientri quella, non so come definirla, tremenda delibera del marzo del 2020, nella quale la regione Lombardia stabiliva che le persone Covid positive che avevano superato la fase acuta in ospedale potevano essere trasferite nell'RSA. È stato quello come un fuoco nel pagliaio, perché ha facilitato poi la diffusione del virus tra le persone ricoverate nell'RSA e tra tutto il personale. Quei fatti finora sono rimasti in ombra, leggeremo i documenti della Procura. Io mi auguro che anche questo capitolo sia all'interno dell'azione svolta dai magistrati bergamaschi. Ma c'è un altro fatto che vorrei che non sfuggisse a chi ci ascolta. Tra gli indagati dalla Procura di Bergamo vi sono molti dirigenti apicali di strutture sanitarie nazionali, nonché componenti anche di quello che era il CTS. Allora qui il punto che solleva la Procura è di estremo interesse, e cioè quanto questi tecnici, quanto questi scienziati hanno agito, hanno espresso i loro pareri, hanno assunto le decisioni di loro competenza in scienza e coscienza, e quanto invece hanno svolto un ruolo di semplice copertura delle decisioni assunte dal potere politico. Mi pare che il fatto che diversi dirigenti sanitari, appunto a livello apicale, siano tra gli indagati sottolinea questo aspetto, questo punto di domanda che la Procura solleva. E io credo che il chiarire questo aspetto sia una cosa fondamentale per ridare anche credibilità alla scienza.